Questo è un podcast di Rivista Militare. 80 anni da El Alamein, di Carlo De Risio. Capitolo 6. Terza battaglia di El Alamein, 23 ottobre, 4 novembre 1942. Alle 20:45, ora italiana, del 23 ottobre 1942, circa 1000 cannoni da campagna britannici aprirono contemporaneamente il fuoco contro le posizioni italo-tedesche ad El Alamein. Tutte le testimonianze concordano nel definire quell'uragano di fuoco simile ai grandi concentramenti di artiglierie della Prima Guerra Mondiale. Sta di fatto che in precedenza, nel deserto, non si era mai visto nulla di simile. Il comandante in capo britannico, generale Montgomery, si vantò in seguito di essere andato a dormire come il principe di Condé, di manzoniana memoria, prima della battaglia di Rocroi. Ma è lecito dubitarne. Montgomery aveva lasciato il quartier generale principale dell'ottava armata di Burg el Arab, spostandosi in un quartier generale tattico a El Alamein, più prossimo dunque alla prima linea, per cui il rombo assordante delle artiglierie era poco indicato per conciliare il sonno. Più che questa vanteria del tutto gratuita, rimproveratagli severamente anche da alcuni autori anglosassoni, al generale Montgomery va contestato sul piano militare e professionale ciò che accadde nelle ore e nei giorni seguenti. Si consideri che per risparmiare munizioni il generale Stumme, sostituto di Rommel, proibì alle artiglierie italo-tedesche il fuoco di contropreparazione, per cui i punti di radunata della fanteria britannica non furono sottoposti ad alcun bombardamento. Decisione criticata da Rommel subito dopo il suo precipitoso ritorno in Africa. La sorte regalò a Montgomery un'altra chance, in quanto Stumme, nelle prime ore del 24 ottobre, recatosi in prima linea per rendersi conto della situazione, finì sotto il fuoco nemico e morì per colpo apoplettico, cadendo dalla sua autovettura, alla quale era rimasto aggrappato per uscire rapidamente dalla zona pericolosa. Dunque, Rommel era assente all'inizio dell'offensiva. Stumme morì con conseguente crisi nel comando dell'armata italo-tedesca. I cannoni dell'asse rimasero muti per alcune ore. Ce n'era abbastanza, in considerazione della schiacciante superiorità dell'ottava armata e della RAF, per pensare ad un'immediata rottura della prima linea italo-tedesca, pur mettendo nel conto l'ostacolo rappresentato dai campi minati. Non accadde nulla di simile. È necessario a questo punto fare un piccolo passo indietro. Nel pomeriggio del 24 ottobre, Rommel, ancora in convalescenza in Austria, era stato raggiunto da una telefonata di un suo aiutante, con la quale gli veniva comunicato l'inizio dell'offensiva inglese. Poi Rommel aveva ricevuto una telefonata da Hitler in persona. Se la sentiva di riassumere il comando, tanto più che Stumme era dato per disperso? Il maresciallo non esitò un attimo a salire su un aereo messo lì a disposizione. L'indomani era a Roma, ragguagliato sulla situazione dal generale von Rintelen. Rommel rimase esterrefatto quando apprese che l'armata disponeva di pochissimo carburante e che non aveva ricevuto, in sua assenza, durata un mese, alcun significativo rinforzo. Da Roma Rommel raggiunse Creta e di lì il fronte. Alle 23:25 del 25 ottobre, tutti i reparti impegnati a El Alamein ricevettero il seguente messaggio. «Ho ripreso il comando della Panzerarmee, Rommel». L'operazione Lightfoot, piede leggero, studiata dallo Stato Maggiore di Montgomery e montata con dovizia di mezzi, prevedeva nel settore settentrionale che 4 divisioni del 30° Corpo e le 2 divisioni corazzate del 10° Corpo, poste davanti alle prime, superati i campi minati, sboccassero abbastanza celermente in campo aperto. 2 corridoi dovevano essere aperti dalla fanteria in direzione dei rilievi di Kidney Ridge e di Mitaira per consentire l'irruzione delle unità corazzate. Nel settore meridionale, intanto, il 13° Corpo avrebbe fissato le divisioni avversarie con un attacco diversivo. per ingannare gli italo-tedeschi sulla direttrice principale dell'offensiva. Ma sulla secondarietà del compito affidato al 13° Corpo non tutti concordano. A sud c'erano le divisioni italiane Brescia, Pavia e Folgore, e un loro eventuale cedimento avrebbe consentito l'aggiramento dell'intera linea appunto da sud. Come sempre non confessata, c'era la convinzione, nel campo britannico, di aver ragione con relativa facilità degli italiani. Il difetto delle ricostruzioni storiche, in particolare degli eventi militari, consiste nel fatto che si indulge sempre, da parte dei protagonisti, a tutti i livelli, a postume giustificazioni e accomodamenti. Qualche volta le testimonianze scritte e raccolte a caldo rispondono meglio allo scopo di accertare come andarono veramente le cose. Ebbene, nella relazione sulla battaglia, scritta appunto a caldo dal tenente colonnello paracadutista Alberto Becchi Luserna, medaglia d'oro, comandante del 187° Reggimento Folgore, caduto tragicamente in Sardegna il 10 settembre 1943 perché fedele al suo giuramento, mentre era capo di Stato Maggiore della divisione paracadutisti Nembo, si legge sotto la data del 25 ottobre: con i rinforzi affluiti l'avversario si era costruito una massa d'urto, valutabile in 5-6 battaglioni e in 2 brigate corazzate, e mirava con essa ad allargare la fessura dischiusasi nel settore centrale della Folgore, gravando verso meridione sopra il 186° presidiante le posizioni di Caretta e Limeimat. Lo scardinamento di questo pilastro difensivo avrebbe probabilmente consentito, secondo i calcoli dell'avversario, di iniziare il movimento aggirante destinato a far cadere per manovra l'intero fronte di El Alamein. Insomma, se gli italiani avessero ceduto, il generale Brian Horrocks, l'energico comandante del 13° Corpo britannico, non avrebbe certo esitato a lanciare la sua 7ª divisione corazzata, senza dimenticare che tutte le unità britanniche del Commonwealth e alleate erano motorizzate, a differenza delle divisioni italiane. Se si deve accettare che lo sforzo principale dell'ottava armata avvenne nel settore settentrionale, dove alla fine si verificò lo sfondamento finale in corrispondenza delle posizioni tenute dalla 164esima tedesca, le fonti britanniche tacciono o minimizzano le possibilità offerte da un eventuale fondamento nel settore meridionale. L'alba del 24 ottobre, questa è la prima verità che occorre ribadire a distanza di 80 anni, si levò su una battaglia entrata innegabilmente in crisi per l'ottava armata, preludio a un esito finale a dir poco sorprendente. Perché furono necessari 12 giorni di violenti combattimenti per sbriciolare una ad una le posizioni dell'asse e triturare letteralmente le divisioni di fanteria e quelle corazzate e motorizzate italo-tedesche. La seconda verità è che l'attacco diversivo britannico a sud incappò nella violenta reazione della Folgore, 4.000 uomini, sostenuta dall'artiglieria della Pavia, in quanto l'armamento principale dei paracadutisti era formato dai controcarri da 47 su 32. Per non perdere mai di vista il quadro d'insieme, anche quello politico-militare, allorché nel 1960, lo storico inglese Correll Barnett diede alle stampe il suo The Desert Generals, tradotto anche in Italia, e sostenne la tesi che la battaglia di El Alamein era stata voluta da Churchill per motivi di prestigio. Il premier inglese, lo Stato Maggiore Generale britannico, Montgomery, Alexander e tutti gli altri sapevano che l'8 novembre sarebbero avvenuti gli sbarchi alleati nel Nord Africa francese. La direzione della guerra, anche nello scacchiere mediterraneo, stava per diventare, da inglese, anglo-americana, con gli Stati Uniti in posizione sempre più emergente. Inoltre, il 1942 aveva visto le capitolazioni di Singapore, più di 60.000 prigionieri, e di Tobruk, 33.000 prigionieri, per cui era necessario concludere l'anno con una vittoria. Ancora, con lo sbarco alle spalle dell'armata italo-tedesca schierata a El Alamein, gli alti comandi dell'asse avrebbero necessariamente dovuto ordinare lo sgombero del territorio egiziano. La volpe del deserto rischiava di fuggire dalla tana. Contro tutte le previsioni, nonostante la superiorità terrestre e aerea britannica, gli ultimi giorni di ottobre del 1942 trascorsero senza la sperata, folgorante vittoria dell'ottava armata. Invischiate nei campi minati, contrattaccate da un avversario che stava impegnando tutte le proprie energie, senza alcuna speranza di ricevere rinforzi, le divisioni britanniche segnarono il passo. In compenso, la RAF picchiava duro e i generali britannici, col naso in su, dovettero ammettere che l'aviazione stava avendo un ruolo decisivo. A questo riguardo, non si darà mai abbastanza atto al quarto e quinto stormo caccia e al 50° stormo d'assalto montato sui superati CR-42 dell'aeronautica italiana per ciò che seppero fare in quei giorni per contenere la massacrante superiorità aerea della RAF. Scrisse un ufficiale britannico: «Vedo passare sopra di me una formazione di biplani italiani CR-42. Non so se ridere di scherno o piangere di commozione». Nella fornace della battaglia si stavano consumando le divisioni del 10° 21° e 20° corpo italiano e quelle del DAC, impegnate in una lotta per esaurimento. Nel settore meridionale, i britannici, tra il 23 e il 29 ottobre, perdevano davanti alle posizioni della Folgore una settantina di carri e centinaia di uomini, appartenenti a reggimenti famosi, mentre a nord continuavano ad essere richiamate tutte le unità corazzate italo-tedesche. Rommel, che 24 ore dopo aver riassunto il comando dell'armata aveva guidato un contrattacco, mettendo in campo meno di 150 carri, vedeva le sue formazioni assottigliarsi sempre di più. Pure Montgomery non era riuscito a passare. Il 30 ottobre, quando a Londra giunse la notizia che l'ottava armata aveva temporaneamente ritirate le divisioni di prima linea per essere riordinate, Churchill esplose. La fase di stallo della battaglia era intollerabile per il Premier, che investì con dure parole il capo di Stato Maggiore Generale, Alan Brooke. «Non abbiamo dunque nessun generale che sia in grado di vincere una battaglia?» Finivano intanto in fondo al Mediterraneo motonavi, piroscafi e petroliere italiane, con preziosi carichi di carri armati, armi, rifornimenti e carburante. Il 23 ottobre affondò l'Amsterdam. Il 25 il Tergestea e la petroliera Proserpina, il 29 la petroliera Louisiano, il 1 e il 2 novembre il Tripolino, l'Ostia e lo Zara. Quando l'affondamento del Louisiano fu comunicato a Rommel, questi annotò: «Ora eravamo definitivamente a piedi». Montgomery, lontano dai rimbrotti di Churchill, stava preparando l'operazione Supercharge, sovralimentazione, un uragano di 400 carri pesanti, appoggiati da 15 reggimenti di artiglieria e tutta l'aviazione disponibile. In quei giorni Rommel era più incline che in passato a riconoscere i meriti degli alleati italiani, i quali non solo stavano condividendo il destino dell'Africa Corps, contrastando il terreno ai britannici palmo a palmo, ma erano destinati a recitare il ruolo di ultimi protagonisti della battaglia. I carri della Littorio e della Trieste, si legge nelle annotazioni del maresciallo, venivano abbattuti uno dopo l'altro dai britannici. I cannoni anticarro italiani da 47 mm, esattamente come i nostri da 50 mm, non avevano alcuna efficacia contro i carri armati inglesi. Si era prossimi all'epilogo. A Tel El Akakir si combatté una delle ultime battaglie di carri e Rommel, dando fondo a tutte le sue indiscusse qualità di comandante, fece ancora una volta segnare il passo ai carri assegnati da Montgomery all'operazione Supercharge. Ormai, per salvare i resti dell'armata, si imponeva la ritirata all'altezza del meridiano di Fuca. Gli ordini furono diramati ed erano in corso di esecuzione, quando giunse a Rommel un messaggio di Hitler, insensato in quella situazione. Alle vostre truppe non potete indicare altra via se non quella che conduce alla vittoria o alla morte. Rommel si indignò, ma obbedì. Era una chiara interferenza politica, la prima nella guerra in Nord Africa. Anche Mussolini chiedeva una resistenza a oltranza. I reparti sospesero il ripiegamento e si generò molta confusione. Era l'applicazione del classico aforisma napoleonico: ordine, controordine, disordine. Alla fine Rommel si sottrasse all'ordine del signore della guerra, che dalla sua lontana tana del lupo a Rastenburg, nella Prussia orientale, pretendeva di interferire in una battaglia che si stava svolgendo a migliaia di chilometri di distanza. Questo avvenne il 4 novembre. Lo stesso giorno si compì il destino della divisione corazzata Ariete, che rappresentava l'ultima riserva dell'armata. Rommel ha lasciato una testimonianza scritta di questa autentica epopea. A sud-est e a sud del comando si vedevano grandi nuvole di polvere. Qui si svolgeva la disperata lotta dei piccoli e scadenti carri armati italiani del 20° Corpo contro circa 100 carri armati pesanti britannici che avevano aggirato gli italiani sul fianco destro, scoperto. Come riferì più tardi il maggiore von Luck, da me mandato a tamponare la falla fra gli italiani e il DAC, i primi, che rappresentavano ormai le nostre più forti truppe motorizzate, combatterono con straordinario valore. Uno dopo l'altro, i carri armati esplodevano o si incendiavano, mentre il violentissimo fuoco dell'artiglieria nemica ricopriva le posizioni della fanteria e dell'artiglieria italiane. Verso le 15:30 partì l'ultimo messaggio radio dell'Ariete. Carri armati nemici fatta irruzione a sud dell'Ariete, con ciò Ariete accerchiata. Trovasi circa 5 km nord-est Bir el Abdi. Carri Ariete combattono. Aggiunge Rommel. La sera, il 20° Corpo italiano, dopo la valorosa lotta, era annientato. Con l'Ariete perdemmo i nostri più anziani camerati italiani, ai quali, bisogna riconoscerlo, avevamo sempre chiesto più di quello che erano in grado di fare con il loro cattivo armamento. I carri italiani si sacrificarono fino all'ultimo. In seguito, il capo degli interpreti tedeschi presso il 20° Corpo, dottor Monzel, scrisse: «La probabilità di sopravvivere in uno di tali carri, dal momento che con tali mezzi non si poteva minimamente parlare di successi militari, stava al di là della sfera a cui appartiene il valore come fatto morale. L'armata italo-tedesca non esisteva più. I resti del DAC e una fiumana di automezzi ripiegavano lungo la litoranea, verso occidente, col sole alle spalle e il viso rivolto alla notte». Nonostante il corps de chasse organizzato da Montgomery, l'ottava armata seguì più che inseguì le poche unità mobili tedesche e italiane che erano riuscite a uscire dalla fornace. Il maltempo e la pioggia, che il 7 novembre trasformò il deserto in un pantano, fecero il resto, bloccando ulteriormente i movimenti di Montgomery. Nel settore meridionale si era compiuto il destino anche del 10° Corpo d'Armata italiano, con l'annientamento delle divisioni Brescia, Pavia e Folgore. La divisione paracadutisti, al pari di quelle di fanteria, stava contando i suoi morti, compresi i fratelli Ruspali, Marescotti e Costantino, medaglie d'oro sul campo. Rommel, in seguito, venne accusato di aver piantato in asso gli italiani, ma si tratta di un'accusa ingiusta. La scelta era tra salvare i resti motorizzati dell'armata o sacrificare tutti. Nel deserto venne abbandonata anche la brigata paracadutisti tedesca del generale Ramke. Questi, vista perduta la partita, radunò i suoi uomini, assalì le colonne motorizzate inglesi e fece ritorno alle linee amiche, presentandosi con 600 paracadutisti. Quando vincitori e vinti contarono le rispettive perdite, si accertò che l'armata italo-tedesca lamentava 25.000 uomini tra morti, feriti e dispersi, oltre a 30.000 prigionieri. Tra questi ultimi anche 10.724 tedeschi, compreso il comandante dell'Africa Corps, il generale von Thoma. I britannici lamentarono a loro volta la perdita di 13.560 uomini, tra morti, dispersi e feriti, e 600 carri armati fuori combattimento. un prezzo troppo alto per l'ottava armata, che avrebbe dovuto livellare l'avversario con relativa facilità in considerazione della enorme sproporzione dei mezzi. Anche se nel Regno Unito vennero fatte suonare le campane per la vittoria, i britannici, in considerazione delle perdite, dovettero rammentare le parole del duca di Wellington a Waterloo. Dopo una battaglia perduta, la più grande tragedia è una battaglia vinta. In sede di sintesi storica, non si può non essere d'accordo con Correll Barnett quando scrive: «Da un punto di vista storico, questo è l'ultimo atto dell'impero britannico come grande potenza unita e indipendente. È qui condensato, ironicamente, il suicidio della vecchia Europa. Perché oggi né tedeschi, né italiani, né inglesi controllano più il Medio Oriente, per il quale hanno così duramente combattuto». I tre cimiteri di El Alamein ne sono muta testimonianza. Un prato verde all'inglese custodisce i resti mortali dei combattenti del Commonwealth. Un castello svevo è stato eretto in memoria dei combattenti tedeschi. In un bianco sacrario sono raccolti i resti dei combattenti italiani. Poco distante c'è la torre di quota 33, costruita da Paolo Cacciadominioni, per anni impegnato nella pietosa ricerca delle povere ossa di quanti, sotto tutte le bandiere, si affrontarono in armi 80 anni fa nel deserto di El Alamein. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.